Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo anche del vertice dei G20 che si è tenuto a Shanghai. Al di là, diciamo, sapete che anche noi siamo scettici ogni tanto su questi vertici, spesso sono o rischiano di diventare delle messe cantate. In realtà questa volta qualche elemento in più c'è, e segnalo intanto una posizione anche da parte dell'OCSE. Al vertice dei G20 c'erano infatti con le principali economie del pianeta, ma anche il governatore della Federal Reserve e della Banca Centrale Europea. Mi riferisco quindi ai due massimi banchieri centrali al mondo. C'era il Fondo Monetario, Christine Lagarde e l'OCSE. Perché lo dico? Perché in realtà proprio dal Fondo Monetario, dall'OCSE e da altri soggetti lì presenti è emerso un giudizio che, tra virgolette, ha un po' isolato la Germania, nel senso che la Germania era rappresentata dal ministro delle finanze Schäuble, il quale ha detto no, basta, non usiamo altri ancora il quantitative easing, no, maggiore flessibilità, non c'è il tema della deflazione. È sembrato restare abbastanza isolato, tant'è che nel documento finale il G20 si dice preoccupato per il possibile peggioramento della crescita globale, un impegno contro le svalutazioni competitive, senza una collaborazione la ripresa può sfuggire. Schäuble ha detto non è crisi, ma serve sostenere della crescita anche con politiche di breve termine. Però, ripeto, poi le novità riguardano soprattutto l'OCSE e una posizione maggiormente espansiva nei confronti dell'economia. È importante perché quello che è uscito dal G20 è il tentativo, perlomeno, di avere un'azione coordinata tra le principali economie, perché quello che sta capitando tra il petrolio a $30, il rallentamento cinese, la recessione in Brasile e quella già ormai presente da 2 anni in Russia, beh, è uno scenario talmente internazionale che non riguarda un'area geografica e le politiche di quell'area geografica. Lo dico perché molti ci chiedono se la situazione sembra simile a quella del 2011. No, non lo è in Europa perché c'è il quantitative easing di Draghi, ma non lo è anche nemmeno a livello mondiale, perché non è l'Europa in sé il problema questa volta, o l'area euro in sé questa volta il problema a livello di economia globale. È un rallentamento complessivo di cui l'area euro risente, e questo per quello che riguarda uno dei temi. L'altro tema riguarderà comunque l'aspetto così macroeconomico dell'area euro, perché oggi sono usciti i dati di Eurostat con buona pace di Weidmann e Schäuble. Mi dispiace citarli già 2 volte in apertura del programma, ma io ricordo benissimo che Weidmann ha detto la settimana scorsa che è il numero 1 della Bundesbank e quindi della Banca Centrale Tedesca: non vediamo un rischio deflazione. Però lui non lo vede, per carità, non c'è una deflazione, quindi prezzi in calo in maniera drammatica, ma oggi il dato che riguarda il mese di gennaio e febbraio, e quindi febbraio su gennaio, è un dato negativo, meno 0,2% l'andamento dei prezzi rispetto a febbraio rispetto a gennaio, e gennaio era più 0,3%. Sostanzialmente era da settembre del 2015 che non si vedeva il segno meno sull'andamento dei prezzi nell'area euro. I servizi hanno avuto una crescita abbastanza elevata, 1%, seguono cibo, alcol e tabacco più 0,7%, fermi i prodotti industriali non energetici 0,3% e in forte calo tutto il comparto energia e prodotti energetici. Questo, va detto, è un segnale, oltre che di consumi deboli nell'area euro, anche dell'effetto del petrolio ai minimi, nel senso che è ovvio che quanto è un petrolio a $30 al barile, i prezzi calano, e infatti meno 8% tutti i prodotti energetici, e avevano già fatto meno 5,4% a gennaio. Ripeto, non basta un mese per parlare di deflazione vera e propria, ma che insomma che l'intera area euro abbia prezzi in calo è un dato di fatto. Non sono antitedesco, lo dico a chi mi scrive dicendo che gli faccio pena. diciamo che ci permettiamo di criticare, così come critichiamo il governo italiano, le politiche economiche, la spending review, che a nostro avviso è stata fatta poco e male, soprattutto per quello che riguarda la riduzione dei centri di spesa, non delle stazioni appaltanti, mi riferisco appunto alle 8.000 partecipate e quant'altro, ci permettiamo anche di criticare non i tedeschi, non la Germania, ma la politica perseguita dal governo di Angela Merkel, e la critichiamo con i dati di fatto. Siamo l'area economica a livello mondiale dove la ripresa c'è stata meno ed è subito sparita, mettiamola così, nonostante i tentativi di questi ultimi mesi. Siamo l'area che è cresciuta meno dal 2008, le altre sono tornate, penso alla Gran Bretagna, penso agli Stati Uniti, penso anche altre aree ai livelli precedenti la crisi. Se poi vogliamo andare nello specifico, la Germania fu la prima a non rispettare questo mitologico patto di stabilità nel 2003. Non deve dimenticare la Germania che le banche tedesche erano esposte nei confronti della Grecia e i soldi li abbiamo messi anche noi italiani, perché adesso sono gli stati e l'area euro esposta verso la Grecia, non più le banche tedesche e francesi. Chiude ogni anno il bilancio sopra il 6% e non è previsto gli accordi del patto di stabilità, non puoi avere un avanzo di un surplus commerciale così alto. E insomma, non parliamo poi del capitolo banche, che quando ha avuto modo ha salvato le sue banche, adesso invece è il rigore estremo con le banche degli altri. Mi sembra una politica che stia portando a una disgregazione dell'Europa, tutto qua. E ne parleremo anche perché oggi avremo un approfondimento anche sulla Grecia. La Grecia non è ancora, dico ancora perché il timore c'è, di nuovo un caso strettamente economico, è un caso chiaramente che riguarda i flussi migratori, in un paese però in ginocchio dal punto di vista economico, che si vede chiudere, diciamo, al nord le frontiere e teme di dover reggere da solo tutta una pressione migratoria che si farà più forte con la bella stagione e quindi col mare più calmo dall'estate in poi, ripeto, in un paese che ha delle difficoltà sul fronte economico che sono ancora tutte lì. 349-238-6666 per i vostri sms, per WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, adesso arriviamo anche a Shanghai, un attimo. Io non sono d'accordo con chi dice è stata la solita cerimonia inutile. No, quando il comunicato del G20 dice attenzione, la Brexit, l'uscita della Gran Bretagna dall'euro è un rischio per l'economia, le politiche monetarie da sole non bastano e quindi non bastano la ripresa, e spinge per un'azione coordinata di maggiore stimolo all'economia, non mi sembra proprio un risultato così banale e cerimoniale. Oh, è appena uscita un'agenzia che in qualche modo blocca quanto ipotizzato ieri dal vice ministro Morando. Allora, è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Tommaso Nannicini che ha detto non vi sarà nessun anticipo IRPEF, resta del taglio dell'IRPEF. Ieri Morando aveva ipotizzato che un primo assaggio del taglio IRPEF potesse essere anticipato al 2017. Invece no, dice Nannicini, resta al 2018. Allora, partiamo dalla borsa, come sempre andiamo con ordine, poi arriveremo anche ai temi. Borsa più 0,80% a Milano, Parigi più 0,70%, Francoforte meno 0,50%, Londra meno 0,20%, euro dopo aver recuperato quando c'era varie tensioni su vari fronti è tornato a quota 1,08%, Saipem oggi recupera il 7,80%, ma stiamo sempre parlando di 38 centesimi di euro per azione. UX Net-a-Porter più 5,30, Fiat Chrysler più 4,20, Ferragamo più 2,80 come CNH Industrial, Moncler più 60 Tenaris più 2,20, Banco Popolare più 2%, Finmeccanica più 1,90, Mediaset più 1,70, Mediolanum più 1,5 come Eni e Unicredit. Monte dei Paschi meno 4,16%, Telecom Italia meno 1,80 come la Popolare Emilia Romagna, lo 0,90 l'Opea della Pop Milano. Sì, ho letto anch'io, me lo dico agli ascoltatori, l'articolo di Giovazzi su Corriere della Sera che suggeriva di tra le altre cose, una specie di vademecum per il Premier su come far ripartire la ripresa, di salvare il Monte dei Paschi in realtà attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, facendo uscire la CDP però da altre partecipazioni. L'ho letto, insomma. Lo inviteremo nei prossimi giorni, Giovazzi, nostro ospite più di una volta. Andiamo avanti invece con le notizie di carattere internazionale. Allora, a gennaio il PIL russo si è contratto allo 0,1% e invece in Argentina si è raggiunto l'accordo con gli hedge fund per risolvere la disputa sul debito in fallimento che va avanti da 15 anni. Gli hedge fund non sottoscrissero infatti la prima versione dell'accordo. L'Argentina pagherà ai fondi speculativi 4 miliardi e 650 milioni di dollari, ossia il 75% di quello che deve loro, e poi riceveranno anche rimborso di alcune spese legali. E gli hedge fund da parte loro si sono impegnati a non interferire nella raccolta fondi dell'Argentina sul mercato dei capitali per essere poi pagati. Visto che citavo il PIL russo, vale la pena ricordare la denuncia di Coldiretti che segnala come le esportazioni made in Italy in Russia abbiano raggiunto il minimo storico da 10 anni, per effetto chiaramente dell'embargo e delle controsanzioni, comunque meno 24% a gennaio. Queste sanzioni stanno colpendo in particolare alcuni paesi e in particolare l'Italia e i settori simbolo del Made in Italy. Pensate che già nel 2015 noi abbiamo esportato solo 7 miliardi di euro, con quasi 4 miliardi in meno rispetto al 2013, che era l'anno precedente all'introduzione delle sanzioni, cioè siamo passati sostanzialmente da 11 miliardi a 7. Ancora per quello che riguarda, vedo molti messaggi sulla deflazione, i dati di oggi, beh insomma, sì, il dato è abbastanza inequivocabile, torna, ripeto, da settembre che non capitava in deflazione l'intera area euro. Tra l'altro su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, oggi trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, oggi a firma del vice direttore Alessandro Platerotti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Platerotti. I ministri finanziari e i governatori delle banche centrali dei paesi del G20 riuniti a Shanghai hanno prodotto un documento deludente dopo 2 giorni di trattative inconcludenti. Nelle 9 pagine del comunicato finale si affermano obiettivi generici e considerazioni banali largamente condivise, ma senza minimamente sfiorare l'obiettivo che interessa tutti: il varo di strumenti efficaci per fermare la spirale di incertezza e depressione dei mercati, rilanciare l'industria e l'occupazione dove la ripresa non è arrivata, stimolare la domanda mondiale soprattutto per impedire che la guerra valutaria in corso degeneri una bagarre commerciale di cui farebbero le spese le aree più deboli del mondo. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, anche se oggi nervosismo e volatilità hanno segnato il passo delle borse e dei tassi di titoli di Stato, dollaro, euro, yen e yuan hanno continuato a segnare un'alta instabilità sui cambi, malgrado le nuove manovre della Cina per aumentare la liquidità a disposizione di banche e imprese. Tutto sembra muoversi ormai la giornata, senza una precisa direzione di marcia, né in campo politico né in campo finanziario. Neppure i dati europei, che hanno confermato la difficoltà dell'Eurozona ad uscire dalla deflazione, hanno scosso più di tanto. La correlazione tra prezzi petroliferi ai minimi e indice dei prezzi al consumo a zero è ormai evidente e neppure i 700 miliardi di euro spesi finora dalla BCE per spingere l'inflazione hanno prodotto risultati concreti. Uscire dal tunnel è difficile, ma sempre più urgente, e viene da chiedersi se le cose cose non andrebbero meglio se invece di continuare a buttare liquidità in un pozzo senza fondo, non sarebbe meglio costringere l'Europa a usare i prossimi 700 miliardi non per spingere i prezzi, ma per stimolare investimenti, occupazione e crescita. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, mi scrive un ascoltatore: caro Barisoni, lei sa quanto la Germania investe in ricerca scientifica, nella preparazione professionale dei lavoratori, nell'efficienza produttiva del lavoro? Certo, nella qualità del prodotto, certo, è solo un mito per tutti noi. Cioè, il modello tedesco produttivo ha alcuni elementi anche che possono non piacere, ma è un modello da guardare come riferimento. Io, quando critico, non critico la Germania, critico il governo tedesco, che ha maggioranza CDU, guidato da Angela Merkel, da un ministro alle finanze come Schäuble, e posso criticare anche un governatore della banca centrale tedesca, Weidmann, della Bundesbank, che sta zitto quando c'è da salvare le banche sue, quando c'è Deutsche Bank, quando c'è Commerzbank, così, ma è anni che ci propina la solita lezione su che Draghi sbaglia, se fosse per lui non avremmo fatto quantitative easing, certo avremmo lo spread di nuovo a 500 in alcuni paesi, o 400, che ha ridetto di nuovo da Shanghai, o forse non era Shanghai, adesso controllerò. L'avevo detto prima che era sbagliato la cura di Draghi, non deve continuare ad essere aumentata, è sbagliato il QE, insomma tutto sbagliato, l'unica cosa è il rigore. Noi critichiamo i politici tedeschi, non la Germania o il modello produttivo tedesco. Detto questo, oggi, visto che parliamo della Germania, in realtà la dichiarazione è di ieri in serata, Angela Merkel ha detto una cosa, talk show, ha detto: attenzione, non abbiamo tenuto la Grecia nell'euro per poi piantarla ora in asso. Questa non è la mia Europa. Il riferimento era soprattutto come la Grecia sta affrontando l'emergenza migranti, però devo dire che questa frase è una frase che obiettivamente merita il plauso, perché dire non abbiamo tenuto la Grecia nell'euro per poi piantare in asso ora, questa non è la mia Europa, è una frase, diciamo, da leader, da chi vuole esercitare leadership e da leader che pensa all'intera Europa. Detto questo, allora occupiamoci di Grecia sia sul fronte migranti sia sul fronte economico. Allora, le voci che avete sentito, le avete ascoltate anche in alcuni dei nostri GR24, sono le voci degli incidenti che sono registrati al confine tra Grecia e Macedonia, 30 feriti, compresi un gran numero di bambini, perché hanno sfondato la recinzione i migranti metallica, il filo spinato, entrando di forza in territorio macedone. La polizia ha fatto uso di gas lacrimogeni, bombe assordanti, ma non ha effettuato nessun arresto. La situazione che resta tesissima, e i profughi vengono fatti passare con il contagocce a causa delle forti restrizioni a catena imposte da tutti i paesi sopra, no? Per cui la rotta balcanica, Macedonia, Serbia, Croazia, Slovenia, Austria, e quindi non più di 580 persone al giorno. La Commissione dell'Unione Europea sta analizzando il piano di emergenza trasmesso dalla Grecia. Lo ha detto la stessa Mina Andreeva, portavoce della Commissione Europea. E le autorità di Atene infatti hanno mandato a Bruxelles la lista, diciamo così, di tutti gli elementi, tutte le cose di cui necessitano per fronteggiare questa situazione. Sentiamo l'Andreeva. Durante un incontro il 17 febbraio scorso tra il presidente Juncker e il primo ministro Tsipras, il presidente Juncker ha richiesto la preparazione di un piano di emergenza. Da allora la Commissione ha lavorato a stretto contatto con la Grecia per aiutarla a stendere l'elenco di tutte le cose di cui ha bisogno. Questo elenco è stato portato a termine e la Commissione naturalmente sta seguendo da vicino la situazione. La Commissione ha preparato dei piani per assistere la Grecia Grecia e altri paesi lungo la via dei Balcani occidentali per fronteggiare non solo l'attuale ma anche una potenziale futura crisi umanitaria. Stiamo usando tutti gli strumenti a disposizione per affrontare l'emergenza, incluso il rafforzamento della capacità di accoglienza, della gestione delle frontiere, del ricollocamento e dei rimpatri. La Commissione sta guardando anche agli attuali e ai futuri bisogni come sistemazione, risorse umane, fondi d'emergenza e diversi sostegni materiali. Funding and in-kind material support. Allora, intanto a Bruxelles intanto fanno sapere che non è escluso che la Commissione europea possa avanzare con, andare avanti con procedure di infrazione verso quei paesi che si rifiutano di fare i ricollocamenti dei migranti, dato che si tratta di decisioni legali vincolanti. Insomma, vorrei anche vedere, adesso lo dicevamo la settimana scorsa, non è che le infrazioni si beccano solo se sfori di un decimale il deficit come se fosse la Bibbia. E se un paese, penso all'Austria, ma non so, decide in maniera arbitraria di non rispettare quello che è l'accordo europeo, non becca nessuna sanzione. Infatti una procedura di infrazione non è esclusa nemmeno nei confronti dell'Austria, dopo la sua decisione di stabilire tetti giornalieri per l'accoglienza e il transito dei richiedenti asilo. Il ministro degli esteri Gentiloni, ministro italiano, dice in un'intervista a Handelsblatt: l'Europa è un passo dal baratro. Noi capiamo le difficoltà dell'Austria, ma la risposta deve essere europea, non può essere unilaterale. Ci colleghiamo con Vittorio Darold del Sole 24 Ore, che sta seguendo la situazione soprattutto in Grecia. Buonasera Vittorio. Buonasera a voi. Allora, il quadro è abbastanza chiaro, ahimè. La Grecia è un paese che dal punto di vista economico è tutt'altro che uscita dalla situazione che un anno fa la portò quasi a uscire dall'euro. Ma sta da sola fronteggiando, dico da sola perché è soprattutto il flusso dei migranti, e soprattutto si sta vedendo chiudere nella parte alta tutte le frontiere, il rischio di un tappo che poi colpirebbe anche l'Italia e l'ipotesi di rotte anche sull'Adriatico è altissimo. Dopo il meteo vorrei capire come riesce un governo che ha difficoltà anche sulla riforma delle pensioni, magari ha delle difficoltà enormi sul fronte della spesa pubblica, a fronteggiare questa iniziativa, e che cosa chiede e queste vicende, che cosa chiede all'Europa. Dopo il meteo, 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. Allora, Vittorio Darold, la situazione economica in Grecia, come riesce la Grecia, se ci riesce, a fronteggiare tutti i flussi migratori che aumenteranno nel corso, ahimè, dei prossimi mesi, in questa situazione di chiusura della frontiera nord? Sì, esattamente. Atene sta affrontando una situazione drammatica perché ha 22.000 migranti bloccati ai suoi confini dopo il blocco appunto della Macedonia, e continua naturalmente il flusso dalle coste turche verso le isole greche, e questo poi verso il Pireo, che portano continuamente, nonostante la stagione invernale, portano appunto continui flussi di profughi siriani, iracheni, afghani. Tutto questo nel momento in cui Atene deve anche affrontare il problema di una riforma delle pensioni e della fiscalità per gli agricoltori, che gli sta bloccando da 37 giorni le autostrade e le strade di maggior percorrenza appunto verso la Macedonia e la Bulgaria. Quindi è in una situazione tra due fronti: il fronte economico interno molto complesso, molto difficile, e un'emergenza migranti che rischia di lasciarla da sola ad affrontare una situazione molto complessa e praticamente impossibile da gestire un paese che è praticamente da 6 anni in crisi e che ha perso il 25% del proprio PIL. Quindi sulla Grecia ancora una volta si sta giocando una partita che non è solo locale ma che è europea, cioè se l'Europa vuole diventare qualcosa di una potenza geostrategica che non può perdere questa situazione, allora c'è una situazione che diciamo apre a delle possibilità nuove, e la Merkel in questo ha capito che la battaglia è che tipo di Europa vogliamo. Nel momento in cui dice che questa crisi è ancora più importante di quella dei debiti sovrani, ancora più critica, dove l'Europa si è divisa con i paesi dell'est Europa, quelli di Visegrad, cioè l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica Ceca e la Slovacchia, che hanno detto che non vogliono assolutamente nessun profugo, non vogliono quote di nessun tipo, e addirittura pronte a fare un referendum popolare come l'Ungheria, l'Austria che chiede ai Balcani, quindi a tutti i paesi che stanno chiedendo di entrare in Europa e quindi che possono essere, una volta entrati in Europa, accedere ai fondi, quindi sono molto attenti a questo tipo di richieste, ha chiesto di bloccare le frontiere. Quindi la Germania che prende una posizione completamente diversa. Beh, devo dire che siccome abbiamo criticato la Germania, il governo tedesco, per non aver, per, il paese, abbiamo detto spesse volte, è il paese più forte, ma non ha mai esercitato una leadership di carattere europeo come se avesse pure. In questo caso, invece, mi sembra che la presa di posizione tedesca, proprio perché arriva dal paese più forte nell'area euro e diciamo con una influenza culturale non da poco su Austria e Est Europa e Balcani, ma insomma sia particolarmente importante e sarebbe veramente un segnale di leadership, cioè pensare non ai casi tuoi, non al tuo particolare, come fa l'Austria, come fanno i paesi dell'Est Europa, ma pensare al destino e al futuro stesso dell'intera Europa. Va detto che insomma, visto il rigore che applica, lo ripeto, l'Europa e Bruxelles sui conti pubblici, sul bilancio, 3.1 meglio che va male, ma 2.9 va bene come deficit. Beh, insomma, assistere a un insieme di paesi che autonomamente dicono no, noi non accogliamo, non facciamo quello che avete deciso, addirittura, ed è l'Austria, grave, gravissimo, perché è un membro storico dell'Europa, ma anche i paesi dell'est appena arrivati, beh, devono scattare delle sanzioni di carattere economico. Non vuoi farlo? Paghi. Cioè non si possono rompere gli accordi di carattere europeo così, altrimenti diventiamo solo una specie di Europa ragionieristica, Vittorio, in cui gli unici accordi che non si possono rompere sono quelli sul deficit. Sì, esattamente, la Merkel in questo momento sta veramente avendo una visione, una strategia, e ricordo che a marzo ci sono tre lender che vanno al voto, quindi è cosciente che si sta giocando una partita dopo 10 anni di potere, che potrebbe anche metterla in minoranza nel suo stesso partito, quindi sta giocando una partita assolutamente da statista, cioè che sì, vede una soluzione. Resterà deluso europea. Chi pensa che attacchi sempre a prescindere dalla Germania, ma in questo caso la Merkel ha avuto un atteggiamento da statista nel dire non abbiamo tenuto la Grecia dentro per mollarla da sola adesso, è già la visione di chi non pensa solo ai casi suoi. Tra l'altro faccio notare che oggi non c'entra niente con la Merkel e con la Grecia, ma la Svezia ha segnato un dato straordinario sulla crescita economica nel 2015, più 4%, più che doppio rispetto al 2014. Certo, e ci si chiede perché, la Danimarca ha fatto infatti solo più 1,2, la Finlandia più 0,4 dopo 3 anni di recessione. Beh, se si va a guardare il dato, oltre alle esportazioni più 6%, c'è una fortissima dinamica dei consumi e degli investimenti pubblici. Beh, i consumi pubblici sono aumentati, lo spiega lo stesso capo analista di Nordea Bank, probabilmente dall'influsso dei rifugiati, nel senso che la massa dei rifugiati che è arrivata in Svezia ha di fatto, come dato statistico sul PIL, aumentato i consumi interni, anche i consumi di matrice pubblica. Quanto regge, Vittorio, la Grecia senza un'iniziativa massiccia nei suoi confronti? Assolutamente poco, perché Tsipras ha solo 2 punti, 2 deputati di maggioranza, ed è una situazione molto difficile, come puoi immaginare, perché ci sono appunto delle tensioni sociali interne per l'ennesima richiesta di misure di austerity, e questo naturalmente sta facendo in fibrillazione, sta mettendo il paese in fibrillazione per l'ennesima volta, ma ormai siamo al terzo piano di aiuti, quindi c'è sempre una situazione sociale sempre più deteriorata. A questo si aggiunge la difficoltà di approntare dei campi profughi, perché 22.000 persone in un paese già devastato metterebbe in ginocchio chiunque, quindi c'è una situazione veramente di emergenza e di crisi umanitaria, questo lo dice la stessa Commissione europea. Insomma, o si decide a far sì che Atene resti, perché geopoliticamente l'Europa crede che quello sia un confine europeo, o rischiamo veramente di perdere Atene e in questo modo però perdiamo anche una visione europea. Sì, devo dire una cosa che, allora, a parte che un ascoltatore mi scrive: stai dicendo una massa di se articola un po' meglio il suo pensiero, forse capisco anche dove e quali. Ma devo dire che altri ascoltatori fanno notare come i greci, nonostante abbiano un'economia in ginocchio, una riforma delle pensioni durissime, non stanno dando segnali, diciamo, di intolleranza, e sarebbero, sintetizzo le battute che stanno arrivando via WhatsApp e via SMS, e ne avrebbero ben donde loro più che i paesi dell'est Europa che hanno messo i muri e il filo spinato prima ancora di dover gestire qualunque tipo di crisi di emergenza, no? Perché se parliamo dell'egoismo dei singoli paesi, non è che i cechi, gli ungheresi, gli austriaci stiano dando un bel esempio. Quando c'era da accogliere, mi riferisco soprattutto a chi stava dall'altra parte della cortina di ferro, no, non mi sembra che noi li abbiamo trattati come dei cugini minori. E sì che, insomma, dopo il crollo del muro di Berlino, qualcuno se lo ricorderà come erano messi quei paesi dopo 40 anni e passa di comunismo, Per cui, insomma, è un po', la storia andrebbe anche studiata con attenzione, lo dico agli ungheresi, che hanno questa deriva abbastanza intollerante, ma anche i cechi e non solo, perché poi la Romania abbiamo visto che sta facendo questa cosa, e gli austriaci, la Svezia. Vai, Vittorio. Io devo solo aggiungere una cosa, che se noi abbandoniamo la Grecia al suo destino, in qualche modo in politica, in geopolitica, non resterà Atene da sola. È evidente che si lascia spazio a nuove alleanze, potrebbero essere gli Stati Uniti, naturalmente, che potrebbero intervenire nel suo sostegno, ma anche la Russia, anche la Russia, dato i legami religiosi e culturali, certo, che ci sono. Quindi, ma infatti gli Stati Uniti sono molto preoccupati che la Grecia, insomma, possa, con una Turchia già a guida Erdogan, insomma, difficilmente guidabile, difficilmente occidentale, mollare anche l'altro grande piattaforma sul Mediterraneo, nel senso che su questo l'abbiamo raccontato molte volte. Vorrei un'ultima cosa da te però, Vittorio. L'opinione pubblica greca in questo momento è così meno intollerante, manifesta meno di altre opinioni pubbliche che prima, che hanno avuto un centesimo dei migranti che ha avuto la Grecia, eppure si sono già in sorte, solo perché la Grecia sa che non può fare nulla per fermarli o perché ha altri problemi, o fa parte, secondo te, di un carattere diverso? No, è proprio un carattere diverso. Tu sai che una di queste, in queste isole dove sono arrivati i migranti, tre anziane donne che hanno accolto uno di questi migranti, in particolare sono probabilmente candidate al premio Nobel per la pace. Questo è solo un piccolo segno, ma c'è una, come dire, una tradizione, perché gli stessi abitanti di queste isole molto spesso sono profughi, perché nel 1922, dopo dalla Turchia, furono appunto dei trasferimenti di popolazione che spostarono dei greci, appunto, delle popolazioni che parlavano greco, tutte nelle isole o nella madrepatria. Quindi sono tutti, come dire, freschi la loro memoria di un ricordo di profughi, quindi di migranti. E questo naturalmente, certo, fa sì che... No, devo dire che per quel poco che conta, la mia esperienza diretta l'estate scorsa fu proprio questa: in una piccola isola greca sbarcavano in continuazione le persone con i gommoni, tutta la comunità si mise in piedi per questo, e stiamo parlando di comunità, voglio dire, con un potere d'acquisto già in ginocchio dopo questi anni di crisi, non stiamo parlando... Ecco perché dà fastidio vedere, per carità, poi possiamo fare intere puntate, non in questo programma, sulle politiche, come regolare questi flussi, è ovvio che c'è un problema di tenuta, però la cosa che dà fastidio è che a lamentare un problema di tenuta sono i paesi delle volte nemmeno così coinvolti. Cioè, cosa dovrebbe fare l'Italia o una regione come la Sicilia, che è anni che becca gli sbarchi, in questo caso dalle coste libiche? Perché gli ungheresi, i cechi, gli austriaci ai primi arrivi hanno già subito tirato su il filo spinato? E visto che parlavi di memoria, è vero che i greci hanno la memoria della loro migrazione dalla Turchia, dovrebbe essere ancora più fresca la memoria dei cechi, degli ungheresi, dei rumeni, in quello che erano prima del crollo di Muro in Berlino e come sono stati integrati in Europa. Comunque, evidentemente è una memoria selettiva, evidentemente gli egoismi si distinguono da paese a paese, il che non vuol dire non affrontare il tema dei flussi migratori, ma vuol dire anche, affrontarlo a livello europeo, se no liberi tutti e ognuno per sé, con il piccolo problema che la Grecia ha un po' di difficoltà a regolare flussi migratori con una costa e con una geografia del genere. Grazie a Vittorio D'Arold, traffico e poi la borsa. Focus Economia. Vedo molti messaggi, nessuno ha detto abbiate pazienza che dovremmo accogliere tutti i migranti che arrivano, a parte che poi migranti è un termine anche sbagliato, ci sono i profughi che scappano dalla guerra e poi ci sono i migranti che scappano di diverse condizioni economiche, è un po' diverso, cioè la maggior parte dei siriani probabilmente non aveva nessuna intenzione di migrare o di spostarsi in Europa, non avessero avuto un paese distrutto dalla guerra, però è un ragionamento che può affrontare quello che si dice l'Europa nel suo complesso, cioè distribuendo le quote. Poi uno può criticare quanto vuole il modo in cui venivano allocate le quote per i vari paesi, per carità, però il principio era, beh, non è che solo Grecia e Italia o i paesi limitrofi si devono sobbarcare questa ondata di tragedia, perché c'è un Medio Oriente, in Siria in particolar modo, che è a ferro e fuoco, non è, diciamo, un flusso migratorio dovuto a motivi economici come la migrazione classica italiana. Il principio era giusto, certo che se poi i paesi iniziano a sfilarsi e nessuno dà delle sanzioni, non tieni più l'Europa, non tieni più i paesi. Comunque, andiamo sulla borsa, una precisazione anche in questo caso, io non ho mai detto che Monte dei Paschi sia in difficoltà, mi è stato chiesto, ha letto l'articolo di Giavazzi che ritiene che Monte dei Paschi andrebbe salvato da Cassa Depositi e Prestiti e ho risposto sì, l'ho letto. Comunque, Monte dei Paschi oggi perde 4,41% a 49 centesimi di euro per azione, sul fronte opposto invece Saipem più 5,50, bene anche Yux Net-a-Porter più 5,12, Fiat Chrysler più 4,20, Moncler più 2,60, Telecom Italia in calo meno 1,86%. Andrea Fontana, Radio Corri sulle 24 ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. In calo anche la Pop Emilia Romagna meno 1,70, Pop Milano meno 0,80%. Borse un po' incerte oggi, c'è il dato sulla deflazione che probabilmente preoccupa perché nessuno capisce cosa potrebbe fare adesso la BCE. Sì, sicuramente oggi si è assistito a una giornata di attesa, la Cina con la mossa della banca centrale cinese sulle riserve obbligatorie abbassate per le banche e anche sul rapporto tra dollaro e yuan ulteriormente abbassato rispetto a qualche settimana fa, e la deflazione hanno rappresentato due premesse di debolezza che hanno consigliato il mercato da una parte di aspettare più chiarezza sul fronte della BCE, dall'altro hanno costituito una cautela obbligatoria in vista di appuntamenti la settimana che riguarderanno soprattutto gli Stati Uniti con il Beige Book della Federal Reserve atteso per metà settimana e soprattutto i dati sul mercato del lavoro atteso per venerdì. Non per niente il movimento più consistente oggi è stato quello del dollaro, che ha sfondato anche 1,09 nei confronti dell'euro, dando no, adesso siamo anche 1,08 e siamo anche 1,08,63, per cui c'è attesa su quel fronte. Telecom in calo, devo dire che la notizia che più sorprenderà gli ascoltatori sono non tanto i titoli Telecom, ma il costo della bolletta Telecom, perché i clienti TIM, è il nuovo marchio Telecom che copre anche il fisso, dal 1 aprile pagheranno da 10 a 20 centesimi al minuto, e 20 centesimi per lo scatto alla risposta. Vale solo per chi ha la linea telefonica di base, e oggi lo trovate spiegato in moltissimi quotidiani, e quindi l'offerta voce e la linea ISDN, cioè quelli che hanno la vecchia linea telefonica di base non hanno aderito alle offerte a forfè, quelle col pacchetto dei minuti, per intenderci. Non so quante persone riguardi, temo che possa riguardare soprattutto le persone meno tecnologiche, meno avvezze, quelle che hanno un utilizzo del telefono più tradizionale e un po' più vecchio, quindi in alcuni casi anche i pensionati. Comunque, torniamo al titolo Telecom meno 1,86% invece. Beh, si è trattato soprattutto di realizzi dopo una bella settimana più 7% con Telecom sotto riflettori, soprattutto per la questione argentina e quindi l'attesa che si possa sbloccare finalmente questa dismissione da lungo programmata per Telecom Italia, che sarebbe importante per gli incassi e per il debito che profilerebbe per Telecom. Quindi oggi però una giornata di realizzi, sì, dopo quel più 7% si è mossa, diciamo, insieme al settore bancario, è stato il titolo più negativo per Piazza Affari. Beh, in recupero invece i petroliferi, più 1,90% Eni, il petrolio oggi è a $33 al barile, dicevo Eni. Saipem invece, più che sul prezzo del petrolio, festeggia, come tu ricordavi, anche l'accordo con un pool di banche per una linea di credito da 3 miliardi e 200 milioni di euro, e poi ha estinto completamente l'indebitamento verso l'Eni. Tra i titoli petroliferi oggi, dopo il bilancio e i conti, va molto bene anche Saras, nel senso che il titolo è arrivato a guadagnare oltre il 5%, risultato netto positivo per 223 milioni di euro. Bene anche il settore auto, domani, se non ricordo male, apre il salone dell'auto di Ginevra, e a questo punto CNH più 2,60, Fiat Chrysler più 4,30%, con lusso chiudiamo Moncler più 2,60, Ferragamo più 2,5%. Grazie Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore, GR24 e poi il G20 e le prossime scelte, diciamo, quello che è emerso da questa attività di coordinamento delle principali economie al mondo. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Il 12 marzo seguici in un mondo a 24 zampe. Rosita Celentano e Angelo Vaira ti aspettano a Milano per Chiedimi se sono felice live, un evento esclusivo dedicato agli animali e all'importanza della loro presenza in famiglia, con testimonianze di esperti e dimostrazioni di addestratori professionisti. Chiedimi se sono felice, live, sabato 12 marzo alle 15, Palazzina Appiani, Arena Civica di Milano. Corri a iscriverti su radio24.it. Radio 24, Sky 1 e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Focus Economia. E 6 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, i due temi che mancano in questa puntata, mi riferisco al vertice dei G20 da un lato, che si è tenuto a Shanghai, abbiamo detto in apertura del programma, non così, diciamo, rituale, non voglio essere offensivo, non così messa a cantata come altre volte, sono uscite le indicazioni anche importanti, e l'altra notizia invece, che è quella di oggi, l'Europa che torna in deflazione. Per carità, è un mese, è solo il mese di febbraio, non capitava da settembre, la componente vera è quella che riguarda i prezzi energetici con il petrolio così basso, però andiamo con ordine, partiamo dal G20, dove i vari governatori, ma soprattutto anche i ministri di finanza e economia, hanno espresso una preoccupazione per l'eventuale uscita della Gran Bretagna dall'Europa, dall'Unione Europea. Hanno ricordato come le politiche monetarie da sole non bastino per la ripresa, quindi dicendo attenzione, sia Federal Reserve ma soprattutto Banca Centrale Europea non possono far tutto da sole, e le cartucce si stanno onestamente esaurendo. Ed è emerso, da quello che abbiamo capito, anche un pressing, una pressione sulla Germania, sia da parte del Fondo Monetario Internazionale che dell'OCSE, per interventi più decisi a sostegno della crescita. Schäuble è sembrato restare abbastanza isolato, e ha detto che il ministro delle finanze tedesco, gli stimoli non servono, meglio le riforme, ma insomma servono le riforme, aggiungiamo noi, ma anche gli stimoli all'economia. Tutto questo a distanza di pochi giorni da quando l'OCSE aveva abbassato le stime sulla crescita globale, portandola dal 3,3 al 3%, un 10% in meno rispetto a quanto atteso. Professor Giorgio Barba Navaretti, docente di economia internazionale alla Statale di Milano, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Lei ieri ha pubblicato una lunga analisi alla luce anche di quanto è uscito dal G20. Fa notare alcuni elementi, per esempio che la caduta dei livelli delle esportazioni, quello che preoccupa OCSE, Fondo Monetario, è una caduta, diciamo, più in valore che in volumi. E se ho ben capito, lei attribuisce questo anche a quello che è successo, da un lato prezzo del petrolio, ma soprattutto anche alle valute, all'andamento valutario. Però c'è un punto che mi interessa particolarmente, poi arriviamo al G20. Lei dice, attenzione, nonostante il petrolio ai minimi e l'euro anche debole, oggi è 1,08, un effetto positivo, fortemente positivo, nell'economia dell'area euro non si è avuto. E qual è il motivo? Ma allora ci sono, diciamo, due punti. Diciamo, l'euro si è svalutato, no? In questi ultimi mesi. Una svalutazione dell'euro avrebbe dovuto portarci due benefici. Uno, un aumento dell'inflazione che stiamo aspettando da tempo e questo non è arrivato. Secondo, un miglioramento della competitività dell'Europa e quindi un aumento delle esportazioni, quindi di volumi di beni importati. Allora, l'effetto, diciamo così, inflattivo non è arrivato perché la svalutazione dell'euro è stata compensata dall'abbassamento del costo dei beni energetici e quindi di molti beni che noi importiamo, che in parte ha compensato l'aumento di prezzo che sarebbe derivato dalla svalutazione dell'euro, no? Quindi dei beni importati. Quindi i beni importati non sono diventati tanto cari quanto ci saremmo aspettati se non ci fosse stato un crollo dei prezzi delle materie prime. Ci sono stati due effetti che si sono compensati. Quindi questo beneficio non l'abbiamo avuto. E dall'altra, effettivamente, le nostre esportazioni non sono cresciute come ci saremmo aspettati, proprio perché la svalutazione le rendeva più competitive e anche dall'altra parte i prezzi delle materie prime le rendevano più competitive, ma non sono riuscite a crescere così tanto perché molti mercati in questo momento stanno rallentando. I paesi emergenti, che sono un mercato di sbocco tipico dei nostri prodotti, in questo momento stanno rallentando e quindi c'è un problema di domanda delle nostre esportazioni che non trovano mercati di sbocco. Quindi, se vogliamo, c'è un po' una situazione paradossale dove anche perché noi abbiamo raccontato per mesi che un petrolio a 30 dollari e un euro a 1,08 era i tassi interesse a zero, aggiungo io, era il migliore dei mondi possibili, nel senso che, come lei spiegava, se tu hai un euro che si indebolisce, esporti meglio perché i tuoi prodotti costano meno in dollari o in yen, ma hai il problema che, siccome il petrolio lo paghi in dollari, ti arriva l'inflazione importata. Così non è stato, perché nel frattempo è crollato anche il prezzo del petrolio. Le vorrei chiedere un'altra cosa, però, ma non è che tutto questo beneficio sulle esportazioni non lo stiamo registrando, oltre che per, diciamo, un calo della domanda dei mercati di sbocco principali fuori dall'Europa ed esclusi gli Stati Uniti, ma anche perché in questi anni il mutamento che ha conosciuto la nostra impresa, e penso alle grandi, ma anche alle piccole e medie tascabili, cioè quelle che sono già lepri, abbia portato i nostri prodotti a una fascia, diciamo, medio-alta, dove il prezzo è una variabile, per carità, ma non è la variabile quando tu operi, diciamo, nel settore medio-alto delle varie voci con cui noi esportiamo. Esattamente, questo condivido perfettamente la sua analisi, nel senso che c'è molta evidenza empirica ormai che tanto più le imprese sono sofisticate, sono grandi, eccetera, tanto più il fattore di prezzo dovuto al tasso di cambio non è significativo. Quindi le esportazioni di queste imprese non rispondono tanto alle variazioni dei prezzi, perché tanto comunque i loro prezzi li tengono alti perché vendono prodotti che hanno alta qualità, perché hanno delle tecnologie di cui tutti hanno bisogno. No? E quindi, insomma, sono esportazioni poco sensibili ai prezzi, e certamente l'Italia negli ultimi anni si è abbastanza ricollocata in queste attività produttive, fortunatamente, perché queste sono anche attività ad alto valore aggiunto che quindi generano risorse per la nostra economia, ma che in qualche modo non rispondono più di tanto alla svalutazione. Quindi è proprio un elemento strutturale nel come è fatta la nostra economia. Adesso vorrei arrivare al G20. Intanto ringrazio anche per averci aggiunto in collegamento il professor Francesco Daveri, che insegna politica economica alla Cattolica, Università Cattolica di Piacenza, editorialista del Corriere della Sera. Buonasera anche a lei. Buonasera. Barbara Navaretti, una cosa che non ho capito, ma neanche gli ascoltatori. Perché lei dice purtroppo non abbiamo avuto inflazione? Nel senso che l'inflazione importata, per come la studiavo io, è sempre negativa. Cioè l'inflazione buona è quella che deriva da un'economia che cresce così tanto e la gente consuma, aumenta i consumi, e aumentando i consumi i prezzi iniziano a salire. Ma l'inflazione cattiva è quella che ti becchi, nonostante un'economia stagnante o in leggerissima crescita, te la becchi da fuori, perché pagando il petrolio in dollari, se svaluti, becchi un'inflazione di tutti i prodotti energetici. È un bene che non sia arrivata questa. Beh, no? Da un certo punto di vista, però, in un momento in cui noi stiamo cercando di far risalire i prezzi, perché siamo in una situazione profondamente deflattiva, diciamo la svalutazione da un lato fa aumentare il prezzo dei beni importati, dall'altra dovrebbe rilanciare la domanda delle nostre esportazioni, quindi far crescere anche la nostra produzione. Attraverso questi due canali i prezzi devono crescere. In questa situazione profondamente deflattiva questo non è male comunque, invece in realtà è successo solo fino a un certo punto. Allora, lei parla di situazione profondamente deflattiva. Weidmann, presidente della Bundesbank, dice no, non vedo problemi di inflazione. Mi sembra che anche Schäuble sia sulla stessa riga. Vorrei sentire un commento anche su questo da Francesco Daveri, poi venire al G20. Ma insomma, siamo in deflazione o è in realtà dovuta, e quindi hanno ragione i tedeschi, il governo tedesco, a un prezzo del petrolio basso, ma altrimenti insomma, tutta questa deflazione non si vedrebbe? Letteralmente non siamo in deflazione, cioè tirando via il prezzo dei prodotti energetici non regolamentati, l'inflazione su base annua è più 0,5, quindi non siamo ancora in deflazione. Non è che poi arrivo a dire che tutto va benone, però se chiediamo se siamo in deflazione, deflazione vuol dire che i prezzi scendono in modo sostenuto per un periodo prolungato di tempo, ecco, non mi sembra che sia questa la situazione. La situazione è determinata da un andamento negativo che persiste, dell'andamento dei prezzi delle materie prime, appunto di quelle non regolamentate, e questo si traduce, come rivestono un ruolo importante nel paniere complessivo, in un andamento dell'inflazione che è negativo complessivamente, ma al netto di questo continua a essere positivo. Allora, dopo il traffico invece vorrei commentare il documento finale dei G20, ripeto, al di là della pomposità, della forma, del rito, della messa cantata, questa volta un po' di contenuto c'è. Leggiamo infatti nel documento finale: il G20 utilizzerà le leve della politica monetaria, e quelle mi sembra che siano le uniche leve che stiamo usando a man bassa, tassi di interesse bassi o in America il tentativo di riportarli un po' in rialzo, di bilancio, e questo secondo me è l'isolamento alla Germania, quindi anche del budget, di quello che puoi spendere, e le riforme strutturali per sostenere la crescita, di un G20 particolarmente preoccupato su un peggioramento della crescita globale. Dopo il traffico, la vostra analisi. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta Focus Economia. Allora, professor Giorgio Navaretti, ha avuto anche lei l'impressione che, insomma, ho capito che frena più il commercio inteso come valore che come volumi, ma insomma di un G20 particolarmente preoccupato che ha messo, non dico in un angolo, le posizioni di Schäuble della Germania, ma insomma non ne vuole sentir parlare di solo riforme e austerità? Beh, sicuramente in questo momento da più parti ci sono pressioni per cercare di capire come fare ripartire, se vogliamo, la domanda. Ovviamente non siamo in una fase di crisi acuta come siamo stati nel 2009, nel 2011, questo deve essere molto chiaro, no? Abbiamo semplicemente una domanda un po' pigra, ma non ai livelli di allora. Però ci sono appunto certamente i paesi però che hanno margini, diciamo, fiscali per rilanciare la loro economia, non sono tanti, quindi tutti guardano la Germania perché è chiaramente un paese la cui economia ha ancora spazi di crescita, ma la posizione dei tedeschi da questo punto di vista è ben noto e quindi mi sembra molto difficile poter andare in questa direzione. Il problema è che i grandi paesi, grandi locomotive del passato, cioè i paesi emergenti come la Cina, eccetera, non hanno più molti margini per rilanciare le proprie economie, anche se la Cina ha un problema fondamentale di far riprendere la propria domanda interna. Per cui, insomma, è una partita molto difficile, ovviamente. Daveri è d'accordo, nel senso che noi abbiamo notato, ma forse ci sbagliamo, un'insofferenza, c'era uno Schäuble che sembrava un po' un pesce fuor d'acqua nel continuare a ribadire, ma non mi sembra che la politica monetaria possa ancora aiutare, supportato da Weidmann, che ha detto adesso fermiamoci con i quantitative easing di Draghi, abbiamo dubbi sull'efficacia della Banca Centrale Europea, non è la panacea, la politica espansiva perde efficacia nel tempo. Insomma, sono rimasti solo loro? Ma leggendo Understart, la versione inglese, oggi proprio, la sfogliavo e la percezione che hanno i tedeschi è un po' diversa, anzi loro riportavano anzi che c'era stata un'usuale consonanza di toni che anche da parte della signora Lagarde, appena rinominata al Fondo Monetario, che ha parlato di riforme tutto il tempo, quindi loro hanno tenuto a sottolineare che più persone tra gli intervenuti hanno sottolineato l'importanza della riforma, però i citati erano Dijsselbloem, che è sostanzialmente una seconda voce della Germania, certo, nel consesso europeo, e poi la Lagarde, forse, che è stata appena rieletta e quindi vuole interpretare così un po' l'ortodossia del Fondo Monetario da questo punto di vista. Quindi no, io francamente spero che i tedeschi parlino in questo modo perché vogliono scoraggiare forse iniziative coordinate a livello globale, però io spero che, soprattutto per le posizioni che ha assunto la signora Merkel quando accoglie gli immigrati o accoglie i rifugiati, insomma non sono parole di facciata solo, bisogna poi unirci delle azioni e lì servono infrastrutture sociali per accogliere tante persone che arrivano in un paese, e questo infrastrutture sociali vuol dire investimenti pubblici alla fin fine, che saranno anche di comunicazione, ma che sono poi in ambiti poi invece più del sistema scolastico e così via. Beh, tutto ciò vuol dire più soldi pubblici dedicati a investimenti pubblici che i tedeschi dovranno mettere, non sarà tanto, sono loro, e naturalmente continueranno a dire che gli altri invece devono essere molto rigidi, però insomma un certo contributo dalla Germania io spero che ci sia, anche perché mi sembra che la crescita stia finendo. Questo è quello che è finendo in Germania, da noi è appena iniziata, no, nel senso che sennò la gente dice quando è anche da noi, sta finendo anche da noi. Uno si chiede ma quali puntate abbiamo perso, visto che è il primo anno che abbiamo fatto più 0,7, il 2015. Senta Barbara Navaretti, in questo modo ritorno al tema di apertura, e quindi abbiamo avuto un approfondimento sulla Grecia, a imbilico tra una difficoltà economica enorme e il sentirsi isolata e sola nella gestione dei flussi di migranti, di profughi che scappano da una guerra. Le dichiarazioni di Angela Merkel, quando dice, ha detto in un talk show, noi abbiamo tenuto la Grecia nell'euro, non abbiamo tenuto la Grecia nell'euro per poi piantarla ora in asso, questa non è la mia Europa. Attraverso la gestione della crisi dei flussi migratori, dei profughi, potrebbe, diciamo, essere in qualche modo il mezzo, non voglio usare il termine cavallo di Troia perché sarebbe già negativo, per fare entrare maggiore flessibilità nel bilancio dell'Unione Europea? Beh, certamente sul problema migratorio bisogna trovare una soluzione coordinata. Abbiamo visto che le barriere, fra l'altro, non stanno in piedi, hanno un impatto devastante da un punto di vista politico, ma anche poi gli immigrati stessi le abbattono, come è successo oggi tra la Grecia e la Macedonia. Quindi c'è una pressione che in qualche modo non si riesce a contenere, non può essere contenuta a livello nazionale, e quindi bisogna trovare assolutamente una soluzione collettiva sul tema degli immigranti. Da questo non si esce in alcun modo, e quando si parla di soluzioni collettive, è evidente che ci deve essere anche una soluzione per ripartire le risorse tra i diversi paesi. Poi se questo possa essere un cavallo di Troia per aumentare la flessibilità su altri fronti è da vedere. Certamente ha ragione Daveri che gli investimenti pubblici che bisogna fare nei confronti degli immigrati sono comunque risorse fiscali che vanno spese per rilanciare gli investimenti. Valgono per gli immigrati, ovviamente dovrebbero valere anche su altri fronti. Quindi diciamo ci vuole maggiore coesione. Il problema problema in realtà è che in realtà gli immigrati stanno sollevando delle tensioni tali per cui tutti i paesi si rinchiudono e sono sempre meno disponibili a soluzioni cooperative. Da un lato ne abbiamo più bisogno di cooperazione, dall'altra tutti diventano più egoisti. Questo è il vero paradosso che stiamo vivendo in questo momento. Allora, veniamo all'ultimo aspetto che riguarda poi l'Italia. Non vorrei sembrare provinciale, visto che stavamo parlando prima del G20, poi dell'Europa e della Grecia e della Germania nei flussi di migranti, di profughi, ma vorrei capire una cosa. Devo fare un brevissimo inciso a chi mi scrive sul Monte dei Paschi. Non abbiamo creato nessun terrorismo, ripeto per la seconda volta. A domanda, ha letto l'articolo di Giavazzi sul Corriere di domenica in cui diceva che il governo dovrebbe risolvere il problema di disinnescare il Monte dei Paschi, che resta un elemento di fragilità per investire nelle banche italiane, utilizzando la Cassa Depositi e Prestiti e allo stesso tempo facendo uscire la Cassa Depositi e Prestiti dalle partecipate che ha, Eni in primis, ma non solo? Ho detto sì, l'ho letto. Non abbiamo mai detto che il Monte dei Paschi sia una bomba all'orologeria. Insomma, lo dice Giavazzi, domani se l'avremo ospite glielo chiederemo ancora con maggior dettaglio. Chiuso questo inciso all'ascoltatore che mi dice domani rischiamo un'altra emorragia di clienti, sono un dipendente, ma non abbiamo mai detto nulla. Detto questo, per l'Italia, Daveri, questa situazione potrebbe, mi rendo conto che sia un po' cinico il ragionamento, ma potrebbe rappresentare quasi un vantaggio, cioè un'Europa con questi problemi da affrontare può permettersi di iniziare con a bastonare l'Italia sui margini di flessibilità a maggio, o invece, visti i temi, viste il rischio di una non tenuta dell'intera area euro anche sulla politica estera dell'Europa complessivamente, saranno più blandi anche con noi? Ma io sono ottimista su questo, cioè la vera minaccia per noi può venire solo da un aumento eventuale dello spread, che al momento è di là da venire, ma proprio molto di là da venire, anche perché quello che ci aspettiamo semmai è un'estensione in ampiezza e in quantità degli interventi della BCE. Quindi con i tassi che rimangono bassi o bassissimi come sono adesso, il costo medio del debito è circa 3,5% per il debito italiano, insomma è chiaro che con la crescita che c'è adesso, cioè zero o quasi, che potrebbe anche addirittura rallentare o comunque non decollare come speravamo, non è uno scenario molto positivo, però non dobbiamo temere l'effetto valanga che invece era stato temuto nel 2011-2012, questo è il pericolo che abbiamo. Viceversa, una situazione in cui in Europa la crescita rallenta e quindi tutti cominciano a dire beh, insomma, bisognerà usare un po' più di flessibilità quando l'economia rallenta, anche i rigoristi tedeschi alla fin fine se ne fanno una ragione, quindi mi aspetto che non verranno a cercarci per i decimali e cose simili. Diverso è il discorso se partissimo con l'agenda Giavazzi del fare punti percentuali di, non so, tagli di tasse finanziati in deficit. Allora, se fosse questo lo schema, allora a quel punto dovremmo andare in procedura. Mi sembra di capire che l'agenda Giavazzi, domani avremo, spero che confermi, la versione autentica, diciamo, ma non la convinca molto. Cioè, Giavazzi, tra le altre cose, diceva: beh, freghiamoci per qualche anno del deficit, spendiamo di più a patto che i mercati vedano che stiamo riducendo la spesa pubblica, non dovremmo essere sotto attacco, ecco perché lei diceva l'agenda Giavazzi. Barbara Navaretti è d'accordo nel senso che in questo scenario delicatissimo, fragilissimo, critico, forse a noi paradossalmente nessuno verrà a farci le pulci sui decimali a maggio? Beh, certamente bisogna essere molto cauti in questo momento, i margini di manovra non sono molti. Per quanto riguarda quello che diceva Giavazzi, io ritengo che appunto forse è difficile andare appunto a aumentare il deficit in questo momento, però c'è un punto che è importante, che per ottenere delle cose in Europa effettivamente dobbiamo fare delle riforme importanti, degli interventi importanti, ed effettivamente ha senso, se vogliamo, cercare di cambiare gli equilibri europei in cambio però di politiche che siano veramente efficaci. Questo mi sembra un punto importante che vada perseguito e dovrebbe essere una linea guida nella nostra trattativa con l'Europa. Grazie, grazie a ambedue, grazie a Giorgio Barba Navaretti e chiaramente, poi ripeto, adesso il programma lo devo chiudere, vedo molti messaggi, domani torneremo anche su questi temi, per cui insomma abbiate pazienza anche su domani, e grazie anche a Francesco Daveri, docente di politica economica alla Cattolica di Piacenza. Noi ci risentiamo domani, intanto da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.